Buongiorno Chiesa, come stiamo? Beh, non possiamo stare che bene in questa atmosfera così forte di fede e di speranza nel nome di Gesù. Per chi non lo sa, io sono un'insegnante, insegno inglese, e insegno inglese ai grandi e anche ai piccini. E insegnare inglese ai piccini è, diciamo, una delle avventure più meravigliose che il Signore mi dà la grazia di vivere. Lavoro in una scuola primaria che è gestita dalle suore e quindi ogni mattina ad ogni insegnante è diciamo richiesto che si faccia fare una preghiera alla classe. Quale meravigliosa occasione, no? Per pregare per i bambini, per fare il macello, per me, diciamo, per dare un valore eterno a quello che faccio ogni mattina. E quindi ogni mattina, quando la prima ora, metto insieme i miei bimbi e dico ok, adesso dobbiamo fare la preghiera, facciamo quella che vi hanno insegnato le suore e poi facciamo quella che vi ho insegnato io. E ho insegnato ai bimbi che pregare è parlare con Gesù, aprire il proprio cuore a Dio. In una maniera semplice, in una maniera naturale, e i bambini lo sanno fare molto molto bene. Dovreste ascoltare alcune delle loro preghiere, sono meravigliose. Fammi vincere la PlayStation, fammi avere un ottimo, sono meravigliosi, e con loro prego anche io. E quindi la preghiera che faccio sempre è: Gesù, fa che questa lezione possa andare bene, che possiamo imparare e che possiamo comportarci anche bene. Amen. Dopo il mio amen succede il putiferio, praticamente. E in un'occasione Francesco, di 9 anni, viene da me e dice: maestra, mi sa che le tue preghiere non funzionano molto bene. Mi sa che devi cambiare preghiera. E io, con tutto l'amore, avrei voluto rispondere al mio studente: la preghiera non è il problema, sei tu il problema. Però no, non l'ho fatto, chiaramente, perché prego anche per autocontrollo prima di andare al lavoro. Va bene, questa era una storia simpatica, un po' per rompere il ghiaccio, perché in chiesa ci si diverte, vero? Oh, vi state divertendo? Benissimo, benissimo, ok? Era giusto una storia per introdurre un po' il tema di questa mattina. Io voglio parlare della preghiera, ma più che della preghiera voglio parlare di come Dio risponde alle nostre preghiere. Allora, per chi è parte della nostra chiesa da un po' di tempo, mi avrà sentito predicare su quando Dio dice di no, quando Dio dice aspetta, e oggi vogliamo parlare di quando Dio dice sì. Vi piace? Bellissimo, aspettate che andiamo avanti nel messaggio. Ma Dio, alle nostre preghiere sincere, può fondamentalmente rispondere in questi 3 modi. Può dire no, ho ascoltato la tua preghiera e la mia risposta è no. Non hai bisogno di ciò che mi stai chiedendo. Io ho un qualcosa di migliore. E lui, Chiesa, ha tutto il diritto di dirci di no alle volte. Perché? Perché è il nostro Padre buono. Dio ci può dire poi: aspetta, ho ascoltato la tua preghiera. La mia risposta non è no, ma è aspetta. E lo può fare perché lui è colui che ha creato il tempo. Lui ha un tempo giusto per ogni cosa e lui conosce quello che è il nostro vero bisogno e conosce la stagione giusta per poter rispondere a quel bisogno. E certamente se il no è un po' difficile da incassare, l'aspetta è ancora più scomodo, no? Perché quando Dio ci dice aspetta, la sua risposta va a toccare, no? La nostra pazienza, la nostra, ecco, ubbidienza. E E va a toccare quindi delle corde che ci fanno crescere in pazienza, in autocontrollo e in mansuetudine. Ma poi Dio può rispondere anche di sì. Hai il mio Green Pass. Puoi andare. La mia risposta è affermativa. È la differenza tra un figlio maturo in Cristo e un simpatizzante, o magari una persona che ancora è immatura nella fede, sta nell'incassare il no, sta nell'ubbidire agli aspetta, ma Chiesa, sta anche nell'accettare, nell'abbracciare, nel vivere i sì che Dio ci dà, il sì che Dio ha decretato per la nostra vita, e vivere in questo sì senza riserve, senza mettere in dubbio, senza aspettare conferme su conferme, ma con fiducia, con gioia, con coraggio. È il cuore del messaggio che io voglio condividere con voi questa mattina, è proprio quello di credere, di incoraggiarci a credere, a camminare nei sì che Dio ci ha dato, a mantenere ferma la nostra speranza. Perché? Perché è fedele colui che ha fatto le promesse. Amen, Chiesa? Il nostro Dio, se ha detto sì, rimarrà fedele a ciò che Lui ha promesso, a ciò che Lui ha detto. E quindi, se ha risposto sì nel guarirti, se ha risposto sì nel liberarti, nel benedire te, nel benedire la tua famiglia, nel darti un nuovo lavoro, nel potenziarti per essere testimone della sua potenza, Lui lo fa. Amen? E non lo fa solo con chi ti sta accanto, ma lo fa con te. Perché sì, non l'ha detto solo a chi ti sta accanto. Sì, l'ha decretato anche nella tua vita. Amen, Chiesa? In 2 Corinzi 1:20, lo possiamo leggere insieme, c'è scritto: poiché tutte, non alcune, tutte le promesse di Dio in Lui, e questo in Lui è in Cristo Gesù, hanno il sì e l'amen alla gloria di Dio per mezzo di noi. In Cristo Gesù tutte le promesse che Dio ci ha fatto sono ferme, sono stabili, rimangono nel tempo, non cambiano. E quindi se tu non conosci Gesù, ma ti rendi conto che qualcosa manca nella tua vita, tu puoi chiedere a Dio: ma io posso essere salvato? Posso avere la speranza di una vita eterna? E in Cristo Gesù la risposta è sì. Tu puoi chiedere a Dio: ma io posso crescere in fede? Posso crescere in amore? Posso crescere in bontà, in autocontrollo, in pazienza? E la risposta in Cristo Gesù è sì. Posso essere un padre migliore? Anche se non lo so come si fa, anche se mio padre ha fatto tanti errori, posso io essere un padre migliore? La risposta è sì in Cristo Gesù. Posso essere una moglie migliore, anche se non lo so come si fa? La risposta è sì in Cristo Gesù. Posso essere uno studente migliore, posso essere un operaio più onesto, nonostante tutta la crisi che c'è nella mia azienda? Posso fare la differenza? Sì, in Cristo Gesù. La risposta è sì. Posso, in questa situazione di grande confusione, di grande dolore, dove c'è in atto un conflitto che non ci sono parole per descrivere quello che sta succedendo, io posso chiedere a Dio: ma io posso avere la speranza di un mondo migliore qui? È di una vita senza guerra, senza dolore, senza pianto, senza malattia dopo? la risposta in Cristo Gesù, grazie a quello che Gesù ha vinto su quella croce, è sì. E questa promessa ha il sì e ha l'amen in Cristo Gesù. Amen, Chiesa? Pensa! Pensa alle promesse che Dio ti ha fatto. Pensa a tutte le promesse che Dio ha scritto nella parola. Queste hanno un sì e un amen. Perché? Perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Amen? Amen? Perché non facciamo un applauso al nostro Dio che è fedele, che ha promesso e che compirà quello che Lui ha detto. Amen. Spesso però il Signore dice di sì, ma siamo noi a tirarci indietro davanti al sì che Lui ha decretato. E questo non ha molta logica, ma per svariate motivazioni, alle volte, alle preghiere che noi abbiamo fatto, a ciò che abbiamo chiesto a Dio con preghiera, con digiuno, cioè se abbiamo digiunato vuol dire che veramente volevamo che qualcosa accadesse. E poi il Signore dice di sì, ci apre una porta, ci dà un'occasione e noi ci tiriamo indietro. Ricordiamo che quando il Signore dice di sì, lo fa fondamentalmente in due modi. Il primo modo è che il suo sì lo conferma attraverso la sua parola, attraverso ciò che c'è scritto nella Bibbia. Dio non ti dirà mai di fare o di credere o di dire qualcosa che nella sua parola non c'è scritto o qualcosa che va in conflitto con quanto Lui ha lasciato per iscritto ai suoi figli. È vero? Ecco perché è così importante conoscere la parola di Dio. Dio non ti dirà mai di non fare qualcosa che invece c'è scritto nella parola. Quindi leggendo la sua parola noi possiamo capire a quali delle nostre preghiere Dio ha già risposto di sì, ha decretato una risposta positiva. Poi non è che ci dobbiamo aspettare che il Signore mandi l'angelo Gabriele nel nostro salotto per dire a questa preghiera io dico di sì. No, spesso e volentieri il Signore non fa altro che aprire una porta, divinamente, al momento giusto, darci un'occasione per camminare nella risposta alla nostra stessa preghiera. Il Signore non farà apparire una colonna di fuoco sul tuo balcone, ma semplicemente ti darà un'occasione per poter camminare nel sì che Lui ha decretato per te. Che cosa voglio dire? Voglio dire che se hai pregato per pazienza, Lui ti darà delle occasioni per essere, indovinate un po', paziente. Se hai pregato per più santità, per più consacrazione, ti darà Gesù delle occasioni per scegliere di non peccare. Se hai pregato di vivere di più lo Spirito Santo, quante volte l'abbiamo pregato insieme noi come Chiesa? Signore, voglio che tu ti servi di me, Spirito Santo, dammi i tuoi doni, fammi vivere nel sovrannaturale. La risposta, il sì, sono tutte quelle persone attorno a noi che possono essere benedette dal nostro pregare per guarigione per loro, dal nostro dare una parola profetica di incoraggiamento. Quindi riconosciamo in questo, senza essere troppo spirituali, troppo... non so come la parola giusta, ma il Signore è concreto. I suoi sì non sono teorici, non sono solo per gli studiosi e gli eruditi che spendono ore e ore a pregare, tutto il contrario. Quando il Signore dice di sì, allora tu lo potrai capire leggendo la Bibbia e riconoscendo, camminando nelle occasioni, attraverso le porte che Dio apre per te. Amen? Spesso però queste occasioni le rifiutiamo. Spesso Dio apre le porte, ma noi non abbiamo il coraggio di varcare quella soglia, perché non sappiamo quello che c'è dietro, perché abbiamo un po' timore dell'ignoto, perché è più facile, Chiesa, rimanere nella situazione in cui già siamo, nonostante siamo stati proprio noi a pregare, nonostante noi abbiamo quel desiderio. Dio dice sì, apre la porta e noi rimaniamo sull'uscio. Ed ecco che di conseguenza a questo, non so se a voi è mai capitato, a me sì, la nostra relazione con Dio ne risente. Perché noi ci sentiamo poi in uno stallo, è vero? Dove non c'è crescita, dove non c'è progresso, perché siamo lì, fermi, sulla soglia, ma non la varchiamo. E quindi ci sentiamo come se stiamo vivendo la vita di qualcun altro, perché noi siamo chiamati a vivere cose più grandi, perché noi siamo chiamati a vivere, a camminare nelle promesse di Dio. Però se stiamo fermi, non c'è crescita, non andiamo da nessuna parte. Ed ecco che la nostra relazione con Dio rimane uguale a quella di un anno, di 5, forse di 10 anni fa. Certamente c'è fedeltà, ma non c'è crescita. E la nostra relazione con la Chiesa anche ne risente, quando noi rifiutiamo di camminare nei sì di Dio. C'è fedeltà, continuiamo a venire in Chiesa, però quel senso di appartenenza, è vero? Quella volontà di contribuire, quel sentirsi corpo, un po' si intiepidisce. E quindi veniamo e speriamo, desideriamo di essere come Tizio e come Caio, perché i nostri panni ci stanno stretti, ma la realtà è che noi non siamo disposti a cambiarli quei panni. E allora Dio, io sono certa che ci vuole fuori da questo ristagno. Amen? Dio ha dei sì per te, ha delle promesse per te, ha delle porte aperte per te, le sue promesse hanno un sì e hanno un amen. Perché? Perché noi siamo opera sua, perché noi siamo stati creati in Cristo per compiere le opere che lui ha precedentemente preparato per noi, non per qualcun altro. E quindi da capo, l'incoraggiamento di questa mattina è a non rimanere sulla soglia. Ma Dio ha aperto una porta e tu lo sai che è porta aperta Dio per te. E se non lo sai, apri la parola e lì lo scoprirai, quali grandi porte, quali grandi promesse, quali grandi sì Gesù ha decretato per la tua vita. L'incoraggiamento che Dio vuole fare ad ognuno di noi è: varca quella soglia, conquista, cammina nelle promesse che Dio ti ha fatto. E vogliamo leggere questa mattina, negli 8 minuti che mi sono a disposizione, un esempio che noi non dobbiamo seguire, va bene? Ho attuato la psicologia inversa con i bambini, no che voi siete bambini. Un esempio che noi non dobbiamo assolutamente seguire, un esempio di un popolo, una generazione che ha rifiutato di camminare nel sì che Dio aveva decretato per loro, una generazione che è morta senza vedere la promessa che Dio aveva fatto a loro perché è rimasta letteralmente sulla soglia. Capite di chi sto parlando? Sto parlando del popolo di Israele. Lo leggiamo in Deuteronomio al capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 8, però vediamo piano piano. Sappiamo che questo libro è stato scritto da Mosè, è vero? E qui in questo libro Mosè non fa altro che ripetere tutta la legge, ripetere tutto quello che era successo nell'Esodo alla nuova generazione. Perché, come ho detto, quella vecchia aveva scelto di non accettare il sì che Dio aveva dato a loro ed è morta nel deserto. Leggiamo. Queste sono le parole che Mosè rivolse a Israele al di là del Giordano, nel deserto, nell'Araba, di fronte al Suv, tra Paran, Tofel, Laban, lì e anche di Zahab. Questo è quello che Mosè dice. Vi sono 11 giorni di cammino. Ripetete con me, 11 giorni. Chiesa, ci siete? Allora ripetete con me, 11 giorni. Ok. Ci sono 11 giorni di cammino dal monte Horeb, per la via del monte Seir, fino a Kadesh Barnea. Il popolo di Israele, questo è il contesto, il popolo di Israele è stato per anni e anni e anni, anni schiavo in Egitto. Ha pregato, Signore liberaci! Dio ha ascoltato questa preghiera, ha ascoltato il grido del cuore del popolo, ha detto di sì, ha chiamato Mosè. Mosè, potenziato da Dio, ha liberato il popolo che in soli 11 giorni avrebbe camminato nella promessa che Dio aveva fatto loro, cioè avrebbe conquistato Canaan, avrebbe vissuto nella terra promessa dove scorreva latte e miele. 11 giorni. Questo era il sì. Deuteronomio va avanti. Lo leggiamo insieme. Nel 40° anno, nell'11° mese, nel primo giorno del mese, Mosè parlò ai figli di Israele, secondo tutto ciò che l'Eterno gli aveva comandato di dir loro. Quando? Nel 40° anno. Che cosa è successo? È successo che questi 11 giorni sono diventati 40 anni perché il popolo non ha avuto fiducia in Dio. Perché il popolo non ha camminato nella promessa, nel sì che Dio aveva dato loro. E perché? Perché aveva creduto ad una bugia. Quello che sta tra noi, sull'uscio della porta, e le promesse di Dio, è una bugia. Mosè aveva mandato delle spie, la sappiamo la storia. E 10 su 12 avevano detto, qui non si può fare niente. Noi questa terra non la possiamo conquistare. Hanno detto, non possiamo salire contro questo popolo perché è più forte di noi. Numeri 13-31. Dio aveva risposto di sì. Ma una generazione intera non ha camminato nella promessa perché ha creduto a una bugia e si è bloccata. Non ha varcato una porta aperta, è rimasta sull'uscio a lamentarsi, a guardarsi indietro. Vogliamo tornare in Egitto? Ed è morta nel deserto perché ha creduto di non potercela fare a una bugia. E allora la domanda che io voglio fare a me e a te oggi è: quale bugia ti sta frenando dal camminare nel sì che Dio ha decretato già nella tua vita? Qual è questa bugia che ti ha bloccato, che ti sta facendo vivere in un ristagno. Qual è? Come chiesa, qual è la bugia alla quale stiamo credendo che ci sta frenando dal predicare il Vangelo, dal vivere un livello più alto di santità, dal mandare operai dove Gesù non è ancora conosciuto? Qual è? Qual è la bugia alla quale noi stiamo credendo? Il popolo di Israele ha creduto che non ce la poteva fare ed era la sua bugia. È la nostra. Hai pregato che Dio si serva di più di te. Ma davanti alle occasioni di servizio, davanti alla proposta di guidare un gruppo, ti sei tirato indietro. Perché? Perché hai creduto che forse non eri capace, hai creduto che forse non eri degno, hai creduto che forse non avresti avuto tempo. Hai pregato di crescere spiritualmente, e questa tra parentesi dovrebbe essere la preghiera di tutti quanti noi, è vero? Amen, mi seguite? E a questa preghiera il Signore ti dice, ma certo che sì, certo che voglio che tu cresca spiritualmente di più. E ti presenta l'occasione magari di far parte di un gruppo. O magari ti presenta l'occasione di battezzarti in acqua e di dichiarare al mondo, alla tua famiglia, alla chiesa, che appartieni a Gesù. Ma davanti a tutto questo ci tiriamo indietro. Perché? È perché non ci sentiamo pronti, è perché non è il momento giusto, è perché cerchiamo delle conferme su un qualcosa, chiesa, che Dio ha già messo ben in chiaro nella sua parola. Dio vuole che cresciamo spiritualmente e nella sua parola ci dà dei passi, ci dà delle tappe. Non c'è bisogno di conferma, non c'è bisogno di aspettare chissà quale rivelazione. Dio l'ha già rivelato. Amen? Eppure ci tiriamo indietro, perché probabilmente è più facile rimanere ai piedi del monte Horeb. Perché quella situazione è comoda, ma chiesa è statica, non ci fa crescere, ci fa morire, non ci fa portare frutto. Abbiamo pregato anche, sai, per le cose proprio che non hanno direttamente a che fare con la chiesa. Abbiamo pregato per un lavoro nuovo, va bene? Abbiamo pregato per la crescita la nostra crescita, come dire, professionale. E il Signore apre delle porte, ma noi rimaniamo sull'uscio. Perché? Perché viviamo in una cultura che ci dice, tu sai quello che lasci, ma non sai quello che prendi. E se finisci dalla padella alla brace, e ci dimentichiamo che se il Signore ha decretato il suo sì, Lui ci darà tutto quello che necessitiamo per camminare nelle sue promesse. Non ce lo dimentichiamo, chiesa. Ed ecco che le bugie sono sempre state un'arma che il diavolo ha usato dall'inizio dei tempi per abortire, per fermare, tentare di fermare il piano di Dio per te, in te e attraverso di te. In Genesi, al capitolo 3, che cosa ha detto il diavolo? Che cosa ha detto? Ha detto, ha Dio veramente detto così? Certo che non morrai. Ha Dio veramente detto così? Mi ha Dio veramente detto di sì? Dio vuole veramente che io mi battezzi? Dio vuole veramente che io parta? Dio vuole veramente che io testimoni della sua parola? Allora il punto è questo, che se noi non sappiamo quello che Dio dice, allora crederemo a quello che il diavolo dice. Questo è tutto. Questo è tutto, ma io non voglio fare lo stesso errore che ha fatto quella generazione del popolo di Israele. Deuteronomio 1:6 va avanti e dice: l'Eterno, il nostro Dio, Manteniamo le luci accese perché non voglio che nessuno si addormenti. Accese, accese, proprio accese. Benissimo. Ok. L'Eterno, il nostro Dio, ci parlò in Oreb e disse: voi avete dimorato abbastanza vicino a questa montagna. Voi siete stati fermi, avete girato attorno a questa montagna abbastanza. Ora basta, in altre parole, ha detto il Signore. Attorno a quale montagna stiamo girando? E quanto tempo ancora vogliamo girare a vuoto? Quanto tempo ancora vogliamo girare attorno alle stesse insicurezze, attorno alle stesse bugie, attorno a perché in passato mi è successo, attorno allo stesso dolore, attorno alla stessa delusione? Quanto tempo ancora vogliamo rimanere sulla soglia piuttosto che camminare, entrare nelle promesse che Dio ci ha dato? Va avanti, il Signore dice: voltatevi, partite e andate nella regione montuosa degli Amorei e in tutte le vicinanze, nella pianura, sui monti, nella regione bassa, nella regione meridionale, sulla costa del mare, nel paese dei Cananei e nel Libano, fino al grande fiume Eufrate. Ecco, io ho messo davanti a voi il paese. Entrate, prendete possesso del paese che il Signore giurò di dare ai vostri padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, e alla loro discendenza dopo di loro. Chiesa, fratelli, sorelle, amici, ci sono alcune preghiere, alcuni desideri, alcuni sogni che sui quali Dio ha decretato il suo sì e noi abbiamo messo in pausa. Noi abbiamo accantonato e stiamo facendo anche finta di essercene dimenticati. Però Dio questa mattina dice: basta girare attorno, vai, parti e prendi possesso. Amen? Quel viaggio missionario, quel ministerio, quell'idea che ti è balzata nella mente per poter condividere il Vangelo nella tua classe o sul tuo posto di lavoro, non procrastinare più, non aspettare più. Vai e prendi possesso di quella promessa. Basta girare attorno alla stessa indecisione. Basta ad aspettare conferme su conferme. Vai e prendi possesso, perché se Dio ha detto di sì, Lui ti darà tutto quello che è necessario per vivere in quelle promesse, per varcare quella porta, quella preghiera di maggiore consacrazione, di maggiore dedicazione. Vai, prendi possesso, è per te. Prendi possesso dei nuovi territori spirituali che Gesù ha preparato per te. C'è di più, c'è un livello più alto. Prendi il coraggio, piuttosto che solo leggerla la Bibbia, studiala. Scrivi la tua prima predica, scrivi il tuo primo messaggio biblico. Non fa niente che poi nessuno lo ascolterà, ma cammina, prendi possesso di quella promessa. Pianifica quel viaggio, parla con le persone che ti possono aiutare a pianificare quel viaggio. Non aspettare più, basta girare. Dio ti chiama a prendere possesso. Abbi il coraggio di dare di più, anche quello fa parte della nostra crescita spirituale. Abbi il coraggio di vivere un livello di generosità più alto. Abbi il coraggio di dare la tua decima. Abbi il coraggio di dare finanziariamente per il regno di Dio, senza riserve, senza paura se non ce la faccio ad arrivare a fine mese. Vai, non credere più alle bugie che ti frenano. Sapete, io per tanto tempo ho desiderato di sposarmi, ho desiderato di avere una famiglia. Non lo dicevo perché sono orgogliosa, sto in progresso di non esserlo più, non lo so. E per un tempo il Signore mi ha detto di no. Mettiti l'anima in pace che è no. Per un lungo tempo il Signore mi ha detto aspetta. E questo tempo è stato così lungo che io pensavo che in realtà quello doveva essere il mio status, la mia, dovevo rimanere singolo e me l'ero fatta andare pure bene. Ma poi il Signore ha detto di sì e il suo sì è lì. No, senza applauso, senza applausi, questa cosa è importante. Il Signore ha detto di sì. E io per un periodo, però, ho rifiutato quel sì. Quando Nico mi ha detto io vorrei iniziare una relazione con te, io gli ho detto di no. Perché? Perché la risposta che mi piaceva dare è che avevo trovato il mio equilibrio. Ma in realtà stavo credendo a una bugia. Stavo credendo che il mio tempo era passato. Stavo credendo che io forse non me lo meritavo. O stavo credendo alla paura di poter essere delusa, di poter stare male. Ed ero lì sulla soglia. E il Signore mi ha detto, ma perché non varchi quella porta? Perché non cammini in quella promessa per la quale tu stessa hai pregato? Quel desiderio, e con questo voglio concludere, di portare frutto per Dio, di portare anime a salvezza, di testimoniare, ce l'abbiamo tutti. E allora prendiamo possesso di questa promessa. Basta girare attorno alla stessa montagna, perché chissà quante persone ci sono dietro il tuo varcare quella porta. Quante persone fanno parte del sì che Dio ha già decretato per te e ha chiamato te a raggiungere. Forse varcare quella porta significa la salvezza della tua famiglia, significa la salvezza del tuo collega, significa che tuo figlio, tua figlia, il tuo amico non moriranno per sempre, ma avranno vita eterna. Capite il peso? Il peso che il sì di Dio ha, ma il peso che ha altrettanto il nostro varcare quella porta. Il nostro basta girare, ma il nostro prendere possesso. Allora, Chiesa, non facciamo lo stesso errore di quella generazione che è morta nel deserto e il miele e il latte è stato solo un miraggio per loro. Camminiamo nei sì che Dio ha decretato per noi, per questo tempo, per noi, per la nostra famiglia, per la nostra chiesa, per la nostra società, oggi. E io non lo so quali sono i sì, le promesse sulle quali tu stai temporeggiando. Non so quali sono i sì che tu hai accantonato, tu lo sai. Io una cosa so, che oggi Dio vuole portare nuova linfa, vuole portare nuovo vigore a tutte quelle promesse che Lui ti ha affidato. Oggi il Signore ci chiama a non girare più attorno alla stessa situazione, attorno alle stesse scuse, attorno a voglio più conferme, ma ad andare, a fare questo passo, a fare questa decisione di rischiare nel varcare quella porta, fiduciosi che chi ha fatto le promesse non è una persona che può mentire, non è una persona che ti può deludere, non è niente di tutto questo, ma è Dio, l'unico vero Dio che è fedele alle sue promesse. Amen? Quindi perché non ci alziamo, Chiesa, insieme? E ti invito a chiudere i tuoi occhi, ad alzare le tue mani come segno d'arresa e a fare la tua preghiera. Sapete, io posso pregare per me, per i sì che Dio ha detto a me, e posso prendere io la decisione di varcare quella soglia, ma non posso farlo, non posso prendere la decisione al posto tuo. Quindi con un'unica voce, un unico cuore, di tu la tua preghiera, di Signore, io riconosco queste promesse, riconosco i sì che mi hai dato e non voglio più girare attorno. Non voglio più farmi ingannare dalla stessa bugia. Voglio andare e prendere possesso delle promesse, dei sì che tu mi hai dato. Preghiamo, Chiesa. Lo Spirito Santo si vuole muovere, vuole portare nuovo vigore, vuole portare nuova linfa a ciò che magari è moribondo, a ciò che abbiamo nascosto. Ma Dio ci chiama questa mattina a crederci da capo, a camminare da capo nelle sue promesse.